io ritengo più che plausibile quanto detto sia dai capi curdi che anche da Bremer, il governatore appunto americano dell'Iraq, che dietro ci sia Al-Qaeda o ad ogni modo ci saranno dietro i battisti, i seguaci del Baas, quelli che stanno cercando di gettare l'Iraq nel caos totale. Ecco, credo che appunto ci sia un partito della dissoluzione dell'Iraq, un partito, come dire, trasversale, che accoglie sia elementi laici che religiosi, islamici, ma non è detto che siano iracheni. Questo è molto importante, perché ritengo anche che ci sia una specie di legione straniera presente in Iraq, e questo già da anni, a supporto di Saddam Hussein e del suo regime, e che stanno facendo di tutto perché l'Iraq non riemerga, non si presenti come un paese dove è possibile avere una vita, se non democratica, almeno meno oppressiva di quanto è stato nel passato. I due maggiori partiti curdi hanno un controllo quasi totale sulla popolazione curda, per cui io credo che anche se disgraziatamente dovesse, diciamo, venir meno anche uno dei due capi, Barzani e Talabani, il clan in ogni modo andrà avanti. Ecco, la leadership ormai già dal 92 porta avanti il discorso di una Kurdistan iracheno all'interno dello Stato iracheno, e quindi di uno Stato iracheno federale dove i curdi abbiano un'altissima autonomia. E questo programma era stato accettato sia da Washington e anche dalle forze sciite moderate. Questi accordi presi con i leader sciiti però di fatto vengono sempre più a perdere peso, in quanto i maggiori leader sciiti sono stati uccisi dopo il loro rientro in Iraq, e io sono più che convinta che sono state le forze del Baas che vogliono appunto distruggere ogni tipo di leadership all'interno del paese. E quindi adesso abbiamo anche appunto dei leader sciiti, quelli appunto sopravvissuti, che adesso portano avanti un discorso di una contraria a un federalismo iracheno, cosa che invece prima altri avevano accettato e che quindi rendevano più facile l'integrazione dei curdi nella società irachena.